Signor Viscoccio, lo sai che mi è arrivato l'alimentation? L'alimentatore è arrivato. Capito. L'alimentatore. Capito. Questo va bene, dai. Certo, lo abbiamo dato. Lo stesso. È buono. Sì, questo qui non c'è niente. Certo. Ma com'è, dai. E mi ricordo di Bria, ad Amir, non me ne voglio durla. La turbola, dopo che ando a Milano a passare un negozio. Ma non mi voleva cambiare l'alimentatore, ha detto che sto mandando per l'assistenza. No, tu non mandi niente l'assistenza, perché è ancora in garanzia e dopo lo giambi. Sì, ma cosa ti dico, cioè abbiamo risolto il negozio. Da quando si sono separati, le cose mi sa che saranno già rotte. Ma male, no? Ci dici? Cosa? Non se ne fa nulla. Mi dà proprio quell'impressione, boh. Se ne ha aperto un altro. Ehi, l'altro è dove è il tecnico. L'altro è... come si chiama? Mauri. Io. Ma io non ha negozio, lui è solo stesso. Appa. Molte le cose vanno a finire male perché si separano e via. Sì, ma era forte perché tu mi avevo spiegato di chiedere perché ha pagato lui, da? E dice la parte te lo metteva direttamente per quella paratura. Pagato, lui può capare giovane. Vabbè, è interessante che sia tornato a letto, mi ha mandato anche lo scontrino, tutto quanto. No, basta ridare. Sto luccica, è nuovo. Si è attaccato quello? E io. Suave, da. E l'ho attaccato perché ho lasciato scaldare, ho spento, riacceso, non è fare quelli feri. Ma perché c'è quello, dici quello? E ne ho tre, ne ho diventato io. Ma è nuovo che sta dei giovani di forza. No, li sto usando tutti e tre, Anto. Non te lo sa fare. Ma è uno nuovo. Viene già su tre. E uno ne... si è attaccati due ai vari apparati e quello li uso per altro. Già, e ora fa uno fatto. Ma io uno c'è l'interruttore delle luci, nell'altro lo uso per il Milan, eccetera eccetera, io lo so io, se non voglio accendere le luci non le accendo con l'alimentatore lì e non si accendono le luci, se voglio accendere anche io si accendo l'altro. Ah. Capito? Certo. Vabbè. C'è parato. Già lo so. Sì, per regola basterebbe uno e fa tutto. Già lo so, già. Però, già va bene. Perché ti puoi organizzare le cose come vuoi tu, capito? Poi vecchi non le ho io, sono tutti nuovi. Già lo so. No, io ne uso uno e basta. E vabbè, ma tu hai tutto mobile, io c'ho la stazione fissa e c'ho le luci, c'ho tutto quanto, tu smonti, fai, rimetti, quindi cosa vuoi, ti porta l'alimentatore? L'alimentatore è sempre uno, no, non si muove mai, è quello che non si muove. Già mi va bene quello. E vabbè, tu hai sempre faccia solo lavoro. Aspetta un attimo, devo vedere una cosettina, un attimo. A me. Ma è l'FM. Beh, adesso che non c'è nessuno, si fa male. Oh già. Ci sei? Tonito, ci sei, K. K, per non rompere le palle a Babbo. E siccome c'ha l'amplificatore del coso acceso del computer, quindi si va forte, capito? Vabbè, lo stesso, interessante che sentano qua. Perché non ti devono sentire? Perché qua esco più basso, non lo so, quando ti arrivo il segnale? E altro che più basso, sì, no? Che... E sto facendo un... fatto. Che ho fatto? Io ho che sei forte, altro che più basso. È tutto chiuso, e apro, me ne dà anche 20. Chiappa, no, è perfetta la modulazione, non so come senti la mia, ma per non darle fastidio, visto che non ce n'è altro nessuno, per non dare fastidio a lui, andiamo qua. Chiappa, che amplificatore c'è attaccato tu, dello stereo? Delle quel 2 più 1, non è fatto una burrotta niente. E quanti fa te quello? Non so, quello del computer, mi fa una trentina. Paga, quello dei film è forte. Chiappa. Comunque qua è una cosa, ti sento benissimo, chiaro. Va bene, questo apparato. Finalmente mi è arrivato, mi sei rimettendo, non mi avevo ne fatto sospirarsi. Chiappa. Lo so. Ma comunque è importante che... Adesso chi si copia si copia più forte. Grido. Oh no. Sai già che c'è zio Dorato che è sempre incazzato. 13.8 l'alimentazione. Caffa. Già lo sai già che c'è zio Dorato. Cava. Io oggi mi sono fatto un bel giro col PC. Ho andato un sacco di siti, cose, ho fatto un bel roba. Prima quello di pesca, poi sulle moto, poi sulle ambulanze, terremoto, incidenti stradali, un bel roba, guarda. Gappa. È bello già così. Eppure io me, quando non c'è nessuno qua, mi diverto a guardare un sacco di roba. Ieri mi stavo guardando tutti i gol che sono stati fatti, il gol del Cagliari, il gol delle altre squadre, bello, mi è piaciuto molto. Io invece mi sono guardato i filmati dell'Aquila, c'era il nostro gruppo di Sassari operando, e interventi, si vedono in faccia proprio. Gappa, anche quello lì è bello. Non ti ho mai scrutato le cose. Poi scrivici Cisom Poggio Royo. Poggio Royo. Poggio Royo. Che cosa vuol dire? Una città, è un paese dove c'è stato il terremoto. Gappa. Ma tanto tu non li conosci quelli di Sassari, quindi... Sono tutti nuovi, adesso non ne conosci nemmeno uno sicuramente, non puoi distinguerli. Ci sono soprattutto donne del Ciso di Sassi. Gappa. Ed è una cosa bella già. Oh, c'era il gruppo FIR, gruppo CB, paese, non so di dove, avevano... entrare operativa all'aperto, antenna, tutto quanto, un tavolo grande tutto pieno di apparati, hanno fatto sentire proprio le comunicazioni, questo qui che ha detto, mettiti che qua sotto le macerie c'è gente che sta morendo. Gappa. E così è, purtroppo. Un cose un po' dispiacevole. Vabbè, non so cos'è bello, ma qualcosa di reale, purtroppo. Comunque si vede anche l'utilità dell'apparato lì, ma non c'è né luce, né comunicazione di telefoni, né nulla. L'unica cosa che funziona lì sono apparati. B, sono CB e HF. Beh, già non credo già. C'erano due stazioni, una di CB e una di H di radioamatori. Così vuole. Sono le macchine con le antenne calamita, messe sopra così, con le antenne magnetiche. Ho visto che ha fatto sentire anche alcuni collegamenti. E poi piace un'antenna grossa per la centrale. Chiamare all'aperto il capo, se pioveva lì guai, che ne danno. Ma tutto all'aperto era, capito? C'era un tavolo grande dove c'era tutta la radio. Diciamo che le tende servivano per altri scopi umanitari. Certo, ma per cosa li usano pure sul tavolo di radio? Nel radio? Comunicare un paese con l'altro, per comunicare magari in un paese vicino c'è bisogno di una mano, di un aiuto, perché magari stanno scavando e facendo tante cose, se ne arriva un terremoto, qualche altra scossa. Ah, ecco, capito, non l'avevo realizzato bene. Io sono per queste cose qui, per comunicare qualsiasi cosa comunicano, magari se servono viveri, se serve tipo di roba da mangiare. In un paese stavano dicendo che stavano dando solo uova da mangiare, un pezzo di formaggio, un po' di uova, di insalata e basta, che erano 3 giorni che mangiavano questa roba. Allora, ci vogliono le stazioni, così. Però capo, una centrale operativa deve avere un contatto. Deve avere uno di quei box abitativi. Questo c'aveva il gruppo elettrogeno, la corrente. Poi avevano di tutto, radio portatili, radio, diciamo, stazione base di quelle grandi, avevano alcuni portatili, se mai magari li trovi. Lo trovi e metti Poggio Ruio, è scritto FIRCB. Scappagappa. Ma dimmelo già che mi sto facendo una cosa. Eccomi. Cos'è, disturbando sta? No, mi stavo mettendo una cosa un po' divertente, stavo dicendo. Comunque, ti capita, vai a vedere, sono dei siti che fanno scendere un po' di lacrime, ma già sono belli. Sono cose che succedono, sono la pura cosa della vita, però alla fin fine ha funzionato tutto, e quello lì è la cosa più bella. C'è un campo tutto quanto allestito dal CISO, tendopoli, cucina, insomma tutto quanto. Diciamo il responsabile di tutto il campo era uno dei nostri ragazzi del CISO. Quando sono andati via hanno fatto una targa scritta in grande grazie CISO di Sasse. Ma l'importante è che loro stiano bene, quello lì, l'importante è questo. Sì, adesso quasi tutti hanno la casa, hanno fatto antisismiche, costruite antisismiche, e diciamo che la vecchia città è scomparsa, specialmente la zona vecchia di Poggio Ruio è tutta crollata. Sì, perché queste case vecchie di 50 anni fa, ci sono case di più di 100 anni e cosa, dovrebbero prendere, cosa cavolo ne fai di mondezza? Prendi, butti giù e la rifai. Ti dai un alloggio provvisorio, fatti bene tutto quanto. Il comune rifatti gli alloggi, quello lo prendi, lo butti giù e lo rifai. Inutile tenere queste case, sono un pericolo, sono. Poi queste vecchie sono antisismiche, cioè sapendo che era una zona sismica, quella lì dovevano fare delle case antisismiche, invece quelle case lì erano, diciamo, vecchiotte, quindi sono crollate subito. Stagioni succedono per queste stronzate, succedono. Adesso Sassari Vecchio, secondo te, cioè, tutto quel rione lì è da lasciare in piedi? Cioè, secondo me no, secondo me è di darli, di fare delle case per alloggiare questa gente qua, darle, buttarne tutto alcuni quartieri, prendere e rifarli tutti nuovi, perché non si può stare con quella roba lì. Quella roba lì è un buco, è tutta terra, cioè con il rischio che te ne scende il tetto, o succede quello, succede quell'altro. Le case vanno fatte nuove, ecco, con tutte le cose che ci vogliono, i sismi e tutto. Cosa ne fa di Mondessa Vecchia? Lo so, ma è una zona vecchia, una zona artistica, una zona che per, diciamo, poterlo farlo buttare così, penso che facciano buttare le case così, così facilmente, specialmente la cosa delle belle arti non ti fa fare queste cose, le restaurano, le fanno, ma tante volte anche le mura, per dire, che ci sono, prima c'erano anche il Corso Trinità, le mura, Porta Uzzi, erano tutte porte della città, dovevi avere la chiave per entrare. Cosa me ne importa, l'antichità è l'antichità. Stiamo parlando che dentro queste case devono andare gente, persone umane devono andare, non maiali e né cani e né cose. Devono andare delle persone umane dentro delle case dignitose e ospitali, non Mondessa fiaco di muffa e di tutto. E dopo con quello che respirano, le bidane bormonite, raffreddori, insomma, sono umide come case in effetti, non sono case da abitarci. Io ho visto certe che fanno pietà. Non condivido queste cose, quelle case lì sono lì che significa la mobilità in atto. Come si fa a tenere case del genere? Cioè, come si fa? Quelle tu le puoi fare lui che ti piace, ma chi ti tiene fare un esempio innato? Perché le case devono essere fatte come si deve, non così. E oramai non hanno più forza, anche se il materiale che mette vale buono, ha fatto i suoi anni, è poco il va. E l'unica è, diciamo, andare in un'altra calcio, perché questa gente si ammala spesso anche con queste case qua. Cosa ti ammali? Perché non vanno bene. Cioè, ti prendi tutti le rai, cioè, è Mondessa, cioè, non va più. Così la penso io. Secondo me bisogna fare un grossissimi finanziamenti per fare gli alloggi provvisori, per prendere e ricostruire le case, ricostruire i quartieri. E ci sarebbe molta più edilizia. Cioè, ci sarebbe lavoro e cioè, la gente sarebbe con una casa molto più dignitosa. Purtroppo l'intendente sarebbe le arti, fidatela con loro, quelli non vogliono buttare giù le cose antiche, sono di gente che, per dire, ha comprato un rudere in campagna, no? Cioè, magari c'erano merletti, roba del genere, quelle antiche non le hanno fatta buttare giù, Prova a buttare giù quella casa, magari quel rudere che c'è, ne farne un'altra, no? Niente. La gente l'ha fatta di nascosto, l'ha buttata giù e l'ha fatta, per dire, simile, no? Però in nuovo. Ah, io invece ne trampo tutta a terra, io a casa mia, prima di tutto, quando io acquisto un terreno, è casa mia e comando io. Devo comandare tutto belle arte, te lo posso dire, con le buone e con le cattive. Le dico, le posso solo un cenno così, io all'esecuzione trampano in tutto, a poi te lo posso vedere io le belle arte, e metti buone quattro palme li faccio in culo, perché è casa mia e decido io quello che devo fare, non lo devi decidere tu. se tu vai su nella compagna, facci pipì tu, no, non, non persone che vogliono fare bene. Lo so, ma non è come dici tu, è una legge, sono delle leggi che bisogna rispettare. Anche se trovi per dire roba antica facendo dei fossi. Molta gente non lo dice perché magari in campagna trova reperti tipo brocche, roba del genere. Anche se lo dici, vado di un fosso nella campagna e non ti fate di Fabio nulla. Ma cioè, quando io sto acquistando, e c'è un casolare vecchio, un rudere, io no, a me di chi di la legge, di non la legge, a me non me ne ha fatto un caso. Io che sto acquistando con i miei soldi, io bene ne trampo tutto, da voi tu figli, poi fare di nulla che vuoi, mi sei trampo le barre in culo, a me non me ne ha fatto nulla. Poi ce la vediamo. Quando io sto acquistando da casa mia e sto acquistando quei soldi miei, tu a me mi sei trampo le barre in culo. Fare un che vuoi, io piglio la ruspa e ne lampo tutto, da poi fare un che ti piace. E molte volte tu lo sei. Magari non sai che quel tipo di casa non si può buttare giù, eccetera, eccetera. Un prima di fregato, perché non ti fanno fare nulla. Cioè tu per dire, Anto, con la motozappa, con cosa trovi tutti questi ruderi, tipo broker, roba del genere, dovresti tornarle e darle al museo e, diciamo, denunciare il fatto alle belle arti, no? Le cose qua, se tu le denunci, ti fanno dei fossi in campagna cercando roba, che poi tu se magari campi dalla campagna non ci vivi più perché stanno sempre cercando se trovano altri di questi reperti, capito? Allora, cioè, ma ti pare non fa entrare niente a casa mia? Ma io non solo, io dal giorno che l'acquisto, l'indomani vedo il cavalore, cavatene di tutto. A Buriaco io non ho detto niente, vai girando le palle, tu le belle alte, io avviati dai nonni, non per entrare mai. Cioè, io dall'indomani la testa, aiù, sotto a chi tocca. Intanto, sempre succede quando fai sciolchi, tutte queste cose in campagna, sempre qualche cosa la trovi, di quelle monete antiche, queste cose qua. Invece le dovresti ritornare, le dovresti dare al museo. Chissà quanti anni di vecchi si ridere. Vanno bene, mi ha sembrato di rompere la palla a casa mia, ma non sei niente. Vanno benissimo, fanno, ma non bene, no, benissimo. Vai, lo acquisto io. Comando, perché io ho messo i miei soldi e le dinara ci ho fatti gli altri, a me non me l'ha putti nulla, qui no che non vende, perché non lo dico io. E decido io cosa devo fare, a che le dinara non ti l'ha dato l'istituto di Ristoronti, le dinara cioè, l'hai travagliato tu e verrai tu, vai dove stai andando, vai. Io non so cosa fanno, fanno gli scavi poi con questi pennellini, cercano, quanti lavori hanno fermato anche a Polo Ottobre, sì, ogni volta che fanno scavi trovano sempre del perdito. Ma carraggia tutto. Tu sbagli di mangiare tutto, però se trovano queste cose sono obbligati a bloccare, bloccarsi, a chiamare tutte le belle arti. E poi loro con i pennellini spennellano fino a quando trovano quello che vogliono. Sì, vabbè, chissà che hanno trovato invece, hanno scavato e ci hanno facciato tutto via. Sai quanto ce n'è, non ho detto niente, magari se ne sono accorti, ci hanno impigliato la roba e li ho avviati. Sai, io manco, sta sapessero. Ah, quindi uno l'ha fatto sicuramente. Campagna lo stesso, in campagna ne trovi un bel, io so di gente che ha trovato monetine, di tutto, di quelle garibaldine, di quelle, una pistola di quella due colpi. Schiaffa, mi guarda che non è una cosa bella, mica, quando tu sei operai che ti bloccano per esempio per 2 mesi il lavoro, questi cretini qua, che tu per 2 mesi non lavori lì, non sono lì per te. Tu queste, cioè, per esempio, tu devi fare 2 mesi di lavoro, se tu non lavori e intervengono questi qua, sono di inappesi, adesso questi tutto, deve essere tutto per le altre, stanno niente a te, perché da voi a recuperare, come recuperi? Da voi non ti pagano, cioè, è un casino. E già quando fate dei sigravagli, ci devo sudare, insomma, incassati e commerciati perché... hanno chiuso la strada a fare sfonsato, buco di tubazione di Ravogna, hanno sciato di gotto. Hanno praticamente proprio il pezzo della piazza, hanno proprio fatto diventare un mortuio. Non è più entrato di un'anima viva, chi lo si può passare, non vede marciapiede, non vede la strada, tutto un buco. Caffa, a quelli chi glieli paga i danni? Nessuno. È uno, un'impresa, chi è che li paga i danni quando intervengono quelli di nessuno? Cioè, invece non dovrebbe essere così. E io sono già la ditta la Savini, fra poco le croci le mettiamo noi, gli operari della Wins stanno già ottenendo qualche cosa, grazie a Dio, dopo tanto tempo però ce la stanno facendo. Poi invece le croci ce le mettiamo noi. Cappa. Almeno lavorerebbero, farebbero il lavoro subito, liberi la strada e via. No, se dovrebbero fare prima una parte e poi l'altra, di modo che la strada rimane libera, una parte almeno si può circolare. Se proprio non si potesse, vedi, uomini lavorano, lo fanno subito, lavorano, asfaltano e via. Ma sono lavori molto lunghi, sono tubazioni un bel grosse, sono... ci sta l'uomo dentro. Dico una cosa, che se prendi niente a travagliare, a vero a vero, e se lavorano a vero a vero, neanche un mese è finito. Sono tubazioni che calano con la ruspa, l'imbragano e calano con la ruspa. Quello è un lavoro che almeno guarda. Manco di un mese dura per lavorare, cioè, bisogna solo lavorare, bisogna. Ma siccome lo sembra che lo fanno lento, per rimanere il più possibile lavorando. Ci sono anche dei lavori che ci vuole sui tempi e c'è poco da fare. Se sono con le persone lì, poi sono 2 o 3 ruspe, mi pare che stanno lavorando. Lavori sono fatti, paghi subito di strada, e allora quelli che fanno quegli stradoni enormi, cioè, ma dai, ma dai che facciamo ridere, bisogna travagliare, bisogna, solo che loro se la prendono con comodo, la prendono anche per creare il lavoro, perché ci deve essere di più, guarda, è inutile, già lo so quello. Si travagliano davvero e si pone l'impegno forte. Non è così, no, a tutti i tempi. Lo so, impegni in più, magari loro per far vedere che ci vuole gente e darti la nave lunga, no? Già le sappiamo queste cose, non è da oggi, dai. E chi ci piange sono sempre i negozianti, chi vende, i commercianti. Chiappa, se quel lavoro lì, cioè, si può fare meno di un mese, ma meno però, neanche un mese. In un mese, visto quello della VDV, se ne si arrabbia tutto. Ho visto, 15 giorni. Stanno facendo una parte solo, ma la parte dei paletti. Si devono togliere, quando ho capito. No, tu, stavo facendo la parte, da una parte hanno fatto già il marciapiede, tutto quanto ho fatto. Devono solo asfaltare, secondo me asfaltano quella parte lì in 15 giorni. I paletti lì non ci stanno a fare nulla, quei pali del Nere. Li avevano già avvisati di tutto e ancora non sono disti già a Cavannini. La mia contenuta, ma non sarà Pannini, l'elettricità c'è cosa, non possono... picchiare, devo staccare tutto. Chiappa, ma anche quelle cose devono farle finire loro stessi. Perché a te vieni Vagusti, tu non vieni a togliermi i paletti. Allora, il comune, siccome deve fare la strada, deve incaricare una ditta esterna, apposta, bannetti, via, cavannini, tutti i paletti, prendere la fattura e mandarla a loro, a pagarsi di tutte le cose, che sei tu lungo. Pigliava, figli ti paghi tutto. Purtroppo non funziona così. Vabbè, comunque almeno col pezzo della Budiluso stanno facendo, almeno non sembra più una mulattiera. Cappa, ma guarda, secondo me gliel'avrebbero dovuto far funzionare così. Però intanto solo il pezzo comunale, poi tutto il resto chi lo fa? Non lo so. Però aspetta la provincia, l'ANAS, la provincia, chi lo sa quando verrà fatto quello. Chiappa, sarebbe qua per farle rispettare le cose, devi agire così, devi agire, ma siccome fanno per le leggi del cavolo, invece si era voluta una legge, assumo rubai dentro il termine, io già una tarista, ne posso cavare un'altra ditta autorizzata, ne faccio togliere tutti i pali, li metto tutto in sicurezza e cosa, da quel figlio te lo dipinteggio tutto, non manca di fare. Io poi non lo so, sfinanziano i soldi per fare strutture pubbliche, cavolo, prima li hanno destinati per la Budibud, adesso li hanno traslati per un'altra, per altre spese pubbliche, e quindi per forza la Budibuddi si è fermata. Vabbè, comunque qualche cosa ce l'aveva l'Alemagna da bu. Sì, io sono canimagnatore. Quella strada l'ha presa, l'hanno presa in appalto due o tre ditte già. Allora, perché anche no, non so cosa fa. Praticamente queste ditte qua vengono finanziate da prima e tu devi fare lavoro per i soldi che ti do. Pigliani, li mangiano i dinati, li fuggini e ti lasciano i gusti. Paga bene e noi paghiamo. Allora, invece no, tu cosa hai fatto? Che ti paghi il tuo pezzo e ti pago. Tu ne vai un altro per questo pezzo, io ti pago ancora. Piano a piano, tu quello che fai io ti pago. Perché se tu fai una cosa del genere, siccome questi qua sono dei grandi disonesti, c'è gente che sono grandissimi disonesti, quelli ti buttino, invece no, da piano a piano Regina. E che rimane buttito dell'operaio da poi. Dai, chi ci trasci, sta sulla strada, che ti faccia la macchina, ti faccia braccetti, ti faccia trapezzo, ti faccia l'ammortizzatore, tutto quanto. È quello, sono operai che lavorano nelle ditte, perché che si spariscono non lavorano, non c'è lavoro. Ma io per come la penso io, a certe ditte l'avrei proprio tolta fuori dalle palle, perché tanto non fanno altro che mangiarsi i soldi e basta. Io comune avrei chiamato la gente adatta che sa fare il lavoro e tutto, assunti dal comune stesso, l'avrei fatto fare così il lavoro. Gente che lavora, non mandronati, gente che lavora. E gente che aspetta nel mestiere, avrei comprato i mezzi e tutto e avrei fatto una ditta così. Perché queste ditte qua non si meritano niente. Vabbè, cappa, ma che cosa vogliamo fare? Noi non possiamo fare nulla. So che non possiamo fare niente, però siamo sempre a pagare i dati. Ecco cosa siamo. Per pochi si gabbia di gatto, usando la frase. Quello sì. Lo sì, le tasse pure adesso con questa storia della guerra civile in Libano, cose, poi c'è quello, c'è l'altro, le tasse aumentano. Eh si ammazzassero tutti quelli lì. Il problema che abbiamo in Italia, dobbiamo andare a fare la pacchia a questi qua. Questi qua non aspettano altro per fare la guerra. No. Gli americani subito devono andare a Puglio, quelli che stanno dimostrando contro Villare. E Villare ha detto che non si ritira sino a quando muore. Villare? Ma che daffo, Giappa, diciamo che secondo me le cose devono tornare a posto. Sì, tornano a posto quando sei diventato trovato dittatore, peggio di lui. Giappa, ma quelli hanno sempre campato così. Infatti, più di 40 anni lui, e non lo vogliono più perché il regime dittatoriale non è molto bello. Quello lì non ti lascia scelta, dice devi fare così e boh, c'è altra alternativa. Chiaffa. C'è un'altra mentalità. Hai visto che ne è morto un altro soldato italiano? Dove? Alla Siria, mi pare. È scoppiata una di quelle mine che mettono in terra, stando col mezzo, sta provando a portare da mangiare, eccetera, eccetera, tutta roba per la gente del posto, e gli ha fatto saltare il mezzo. Non viene mangiato altro. Mero di mezzo, guarda, dico la verità. Quando da Etta, chi c'è i beduini, mero di mezzo da militare. E pure c'è gente che magari ci va perché la famiglia servono soldi e cose. Sono 7.000 euro ogni volta che vanno. Io erano 7.000 euro, ma... Alla cosa, 7.000 euro al mese. Sì. Lo so. Ogni volta che vanno stanno minimo un mese. Lo so già. Era appena partito, era... pare che era un alpino. Scappa. Oia, pacari dai. Diciamo che non lo so manco io più. E ce le paghiamo noi. Vabbè, quello sì, senza ombra di dubbio. Adesso poi c'è anche questa emergenza profughi. E ci saranno dei profughi che scapperanno anche da lì, capito? Imbarcano qua in Italia. Bisogna mantenerli, dare gesti di accoglienza, insomma, so di là su di là, il tasso di paghi. Guarda, io li avrei fatto come hanno fatto loro tanti anni fa, quasi, io le so le cose, mi la so la storia. È un casino. Ma cosa non te ne ammetti più quando entrava nel gruppo che... e ricordiani a sventagliate. Ah, ma te sei cosa? Abbiamo portato una mitragliata sui confini. Adesso come ti sei avvicinato che ti ha battuto il coprifuoco? E a Lampedusa barche anche di 1.000 persone. Ma c'è così là, fucilate. A Bobo. E non mi sei sentito. A Bobo. Buonasera. Sta proprio a basta. No, io sono proprio basso qua, sto uscendo esattamente con 8 watt. A basso. Io sto uscendo basso. E altro non lo vedrai manco a difesa perché penso che tu smetti di più 9,60. Ma posso alzare? Lo posso far vedere, guarda. Così come arrivo, guarda. Vai. Siamo a 7 di Flaria, vado qui a Vustere, fondo scala. Ma Luca sì. Via. Ecco che cosa stai uscendo, non è se mi sembravi Stefano. Cosa stai uscendo? Perché Stefano? Il spiazzurro. Boh. Con microfono normale già. Ma è cazzallo. Qua, fa passaggio. Tre prova radio. Quello ci ho fatto, aspetto. Luca. Oggi ho visto un impianto su un SR50 della fine del mondo. Si è fatto l'impianto sotto la sella, allucinante, casse sub da 200 watt, amplificatore e poco zuccava su internet tu. Beh, ancora vivi siete. Beh, io vi ascolto sempre, siete sempre sotto controllo. Ciao Gianni, poi Antonio e l'altro non ti piaceva, Luca, così? Sì, sono io, ma avanti il mito, buonasera Luca, è un vero piacere sentirvi tutti. Come avviene Gilemme? Faccio Piedino, avanti mascherato. Perché ci ascolti e non entri? Ah, io ascolto, vi ascolto molte volte, non faccio qualcosa qua. Vi ascolto, capito? Oggi mi sono entrato così perché siete nel FM. La M non c'è. No, non mi piace la M. Vai, sei sempre entrato in AM. Ma va, va. E beh ragazzi, tutto a posto. Cosa mi raccontate di bello? O Luca? Che ti racconto di bello? Niente di bello. Nulla Fabri, nulla. Di brutto male di qualcosa, ma di bello niente. Stavate parlando di guerra, di mitragliatrici. Avanti Antu. I discorsi erano uguali, se li sentiti. Un po' del più del meno. Così è. Roba attuale. E capo, va meglio così. Tutte le cose sono buone per aumentare i prezzi. E per aumentare le tasse. E adesso con questi sbarchi a Lampedusa, questi sbarchi dei profughi che ci sono stati, ti credi che le tasse non ti aumentino? Campare a questi qui che vengono qua, devono piacere di accoglienza, dare da mangiare. E non c'è niente vero che va fame, e specialmente in questo periodo. Perché oggi lo sai cosa ha fatto uno? Si è portato le buste dentro nel supermercato. Ha portato le buste, si è preso il carrello, cosa? Prima di uscire si è riempito le buste e poi è passato correndo alle casse senza pagare. È un casino, purtroppo è così. È un casino e poi il problema è che sono loro. Tutte le scuse sono buone per aumentare benzina e tutto quanto. Cattolista la benzina, fra poco andiamo con gli asinelli, torniamo con i cavalli. Via la prova, vai! 1, 2, 3, prova! Prova c'è stata abbondante. Tu cos'è, mi stai salvando, Ma qui c'è 9.30. Bella radio, ultima, bella radio, bella. Tu, bene, bella radio. E devo che non è quel bidone che c'è Antonio. Odo. Odo, che il bidone ce l'hai tu, se no sei molto morta di carattere. Cazzata, uscita da un baracchino di cartone. Sì, qua a vedere col baracchino di cartone, ti faccio la mossa di carattere. Capito mi hai, avanti, oco, già. Ia. Esce bene anche Antonio, dai. Ma un po' tutti siamo bene, in FM è una frequenza che noi non utilizziamo, non si capisce il perché, però anche Walter l'ha sempre detto, molto migliore della M. Sicuramente sì, molto meglio come modulazione, come studio, anche come frequenza più tranquilla, capito? A me è sempre piaciuto. Per la lontananza va meglio, un po' di più. È così, Ah, ti ha tu. Ragazza, e io quando ti arrivo nel FM? Santiago 7. Vai. Sì, a Santiago 7, Radio 2. Come sei che arrivo a Santiago 7? Vai, controlla bene. Ho già controllato, già arriva 9.60, arriva Gianni. Sì. No, non cambia niente, Luca lo stesso, Luca arriva 9.50. Gianni 9.60 e lui Santiago 7. Mi attacca l'antenna. Tu bianco 2.7. dai cinesi. Dai cinesi, perché è geloso, sì. No, così me lo compro anche io. No. Posso scattare il 9,50. Ah, bravo, va. E vabbè, cosa c'è? Bisogna attaccare. No, io no. Ah, e poi dai, quasi c'è tutti furti. 9,50 già è più o meno lo stesso, e invece Luca arriva a 9,40, arriva benissimo. Gaffa. No, volevo capire se riuscivo a superare a Gianni. No, Gianni è molto più grande di te, anche più grosso. E Gaffa, a me vai a Zarate. Ah, io provo a vedere. Ah, hola, hola, Gianni. Hola, hola, hola, hola. Aspetta che ti attengo. 3, cacca, ma vuoi vedere chi passa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Già adesso arriva, attenuato arrivi basso, ma prova a attaccare già. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guarda, attenuato arrivi 9, o a Tune e 8 Gianni, però quando parla Gianni la modulazione ti schiaccia o a tu. Vabbè, un po' di modulazione mi manca, ma il segnale no, eh. Ma se c'è il segnale, non c'è la modulazione, ragazzi, devi fare. Sì, vabbè, a Santa Arrangia, sì, o... Poi c'è la cosa che lui è più vicino, è lui basso. Sicuramente sì. Ah, in linea di massima, Luca. Non mi piace la mia gara, mi piace farmi sentire buono. Ma è fatto, già fai gare. Prima c'era il coso di farle, capito? Adesso poi me l'ha passata questa che la gara, vi credi? Adesso la accendo perché sono qua vicino, come ti ho detto. Lo dico sempre, sono sporto, tranquillo, che mi intende poco e niente. Se io avrei potuto fare le gare, avrei goduto come un matto. E io vabbè. Se veniva di nuovo il tempo delle gare sarebbero tutti adeguati per farle, ma siccome non c'è competizione, il baracchino si usa per parlare, per stare tranquilli e buh. Ma c'era la competizione, si facevano le gare, che sottoscritto ci aveva Giambaristocrat con 600 fatte di uscita, so così mi spiego. Ma no, non è per fare che chissà che cosa di brutto. Cioè, proprio per ridere, per sfidarti, è solamente una sfida, non è niente di particolare. Cioè, io perlomeno la vedo così. Non è niente di brutto, a manco atti, come se dico con le potenze, che dico, piglia, boom, non è per altro. Ma anche prima si facevano così, Antu. Se ne diceva tutti i colori, buttaci la ferrovecchia, non serve quell'apparecchio, questo e quell'altro. Aiuta, stai zitto, fai da bravo, quando uno c'aveva, per dire, un lineare più potente, alzava e diceva aiuta, fai da bravo, mentre stava parlando, magari questo qui è incazzato, e così diceva, aiuta, fai da bravo, su, se no poi ti... mi tocca metterti la portante e non ti faccio più parlare. Oppure quando era Badesi, Olbia, cose facevano le gare. Scappa. Secondo me non bisogna arrabbiarsi. Soprattutto quando uno sa che può. Bisogna agire e basta, e poi fare la risatina. Lo sai, che molte volte ti porta... Quando uno fa le gare, a consumare corrente inutilmente, secondo me. Io dico chi attacca, questo attaccare 500 watt, 700, 1000, è solo corrente sprecata, secondo me. Cosa fai anche a fare i gari? È proprio da, non lo so, ognuno fa quello che vuole, ma non me ne frega niente. Si può fare due passaggi, va bene, ma no a fare i gari, è più calluzzi. Mi ha cavato il ballo da bocca. Io avrei anche risparmiato con quei cosi a valvole. Avrei fatto una cosa per risparmiare. Sono sicuro che è efficace. Ehi, c'è un mio momento. Fabrizio, l'altro giorno attaccato mi questo o mi toccano. Ma comunque c'è una. Io ce l'ho un sistema per non consumare corrente. Mi sono imparato. No, però qua già io alla Eurica. Ciao, se sei in campagna sei a Dama perché attacchi attacca un gruppo elettrogeno e via. Questo va per studio. Perché a mettere la corrente di casa è un bel. Invece col gruppo elettrogeno metti cosa ne fa, metti con un'oretta, una mezz'oretta così, ma manco un litro di gasolio, buono. E non, però non ci spendi l'era di Dio. O di benzina, cioè l'era di Dio. Un po' grosso te lo manda Luca. E va. Beh, cazzo, però se tu c'è una paleurica nel giardino va bene. Infatti, il costo è sempre. Che consumi gasolio, quindi fate ne aveva uno da 30 kW mi sembra di quando aveva luce giù del bunker, ne aveva uno da 30 kW mi pare di gruppo elettrogeno, e consumava gasolio, c'era la corrente, sì, poteva attaccare quello che voleva, ma consumava gasolio. Vabbè, ma tanto che consumi di gasolio, non è che c'è tutta cantata di attaccato, no? Che sto costo ne consuma, cioè poi quando consumi quei 2 litri consumi, ma poi lo spegni, però a te, cioè attaccare a corrente di casa è ben diverso, cazzo, allora che su puntatore diventa tipo Formula 1, diventa una volta pare il motore di 883. Ma tu lo sai, tu ti rendi conto che la scosa è un gruppo elettrogeno da 30 kW, 2 litri. A me puoi dire che mi sono trovato in moto, ma stai scherzando tu? Dicono quello lì consuma, guarda, gli do una balla, ti fate tutto il giorno, puoi fare quello che vuoi, fai una trentina di più, dai. Insomma. No, ma se tu ti vai, di meno già sì. Già non ti consuma molto. Tu, però questo che non puoi culo a tutti e si attacca, capito? Perché c'è 30 kW, voglia attaccare pescatori, e voglia. Tu. E me. Però no, fai come ho fatto io, mi sono collegato al palo della luce della sala. Va bene. Mi sono trasformato e mi sono collegato, c'ho l'infilo che entra qua in cameretta e mi sono collegato alla sala. Ma cosa stavo pensando? Consumare meno luce, prendi un alimentatore grosso da 100 ampere almeno, prendi un inverter da 2000 watt, glielo attacchi e si consuma di meno. Oppure ti metti 2 pannelli solari, che è quello che fanno lì, pure spegni i baracchini. Ma già ce ne sono così da consumo. Io sto parlando di amplificatori che arrivano 900, 100, 900 watt così. C'è una potenza del genere, c'è un gruppo elettrogeno anche a benzina da 2000 watt, cioè sono 2 kW, già ce la fa, voglia. E cosa che siano 1000 watt? Cosa che siano 1000 watt? Antenna rombe. Ma cosa cazzo tu cristiani? Stavo guardando una rivista l'altro giorno di una stazione americana, una di amatore, usciva con 30 kW, pensa un po'. 30 kW, c'è una torretta di 60 metri con le direttive sopra. Gru, cazzo, nel suo giardino, nella sua campagna di casa sua, e c'era 60 metri e quando ha potenza di 30 kW in uscita, quando è a pieni regimi. No, dai, Santa Nora Mara, andi babbe, dai. L'ha rivista il mio amico l'altro giorno, era in Corsica, la fine settimana scorsa, me l'ha fatto vedere. Ah, cavolo, qualche internet? Sicuramente aveva qualche sito, sicuramente, non so, però non mi ricordo anche se l'aveva. Un americano, è la parte della California, la zona lì. Ma 30 kW, pezzo. Ma ciò che trova il cascuccio, capito? A quei livelli sono cose che ci vuole dire, passione e molti soldi, quando fai queste cose sofisticate, ma ce l'hai, ne ho più di queste torrette, erano delle, come si chiama, delle gru dismesse, no, una e l'altra 60 metri. Cazzo, quando va a fare tutto, quando va a fare tutto, è purtroppo così. ci ha comprato queste gru, diciamo, vecchie, le ha tutte fatte riverenziare, ha fatto fare un bus e gli ha fatto il giardino. Ha 4 direttive per le HF. Cazzo, come fate a piazzarle? Cosa fa? Cosa fa? Come ha fatto? Ma io non so, io penso che, perché il piano di questa gru aveva una specie di quadrato 2 metri per 2 metri con le ringhiere, capito? Qui sicuramente salivano in due e poi con le carrucche portavano magari le antenne o piazzato o metallo e poi le arrivavano sopra, non so, però è una cosa fuori di gabo. Io ho bisogno di portare antenne anche col coso, con le elicottero, Luca. Ma cacchio, non dico io, ma pensavo con l'elicottero. Per infilare l'antenna in punta, salirla e puntarla con l'elicottero e poi mollare. Ma salire su un coso da 70 metri, ma manco questi magari. Ma lo fanno con le cinture di sicurezza, mica sali così senza le gatte, mamma così. So, ma ci sarebbe, lo fanno quel che sono gru, capito? E sono questi belli ancorati, capito? Quelle cinture, tutte queste cose qua. No, vabbè, per te è un gatto di mudo dopo, anche se sali tutto bello tranquillo, nel senso sicuro, ecco, però è sempre... Io devo cazzo un mappone cazzo un casino. Siamo mai due giorni, guai. Mamma mia, guarda, tu dove stai? Qualche volta è capitato che passavo al ponte di Los Lapiti. Quando passa il tram, è proprio capito, che ti ricordo il ponte di Rosello. Sì, sì, quello è vero, l'ho sentito, l'ho visto anch'io. Mamma mia, fatemi di gusti, io ogni volta che passo, mi guardo la parte della fontana, guardo, cazzo mi cago, mamma mia, ho paura, vero. Io ogni volta che passo, penso la gente che si butta giù, come che coraggio ha, Cos'è già? Non è tanto il coraggio, praticamente quando una persona, non si più la con il cervello, non fa niente per te, proprio non si più, non si fa più, proprio si butta. Cosa? Io già due ne ho fermato buttando, se lo sai. Capitato, è stato due fa. Questo tipo quanto devi andare? No, sono la sorella, ma c'è male, non so che macchina che fa, e butto dietro. Di al ponte di Rosello, fatto questo qua. Voi me l'ho raccontato, questo tipo l'ha discorso. Ha preso il tappello e si è saltato da un botte. Io una volta con Natalino gli stavo facendo vedere dove si è buttato un tipo, cazzo, e vado per farglielo vedere, vediamo questo tipo scavalcando, Natalino si sta buttando un tipo, noi siamo scesi dalla macchina, l'abbiamo bloccato, aveva già la gamba fuori, e poi l'abbiamo portato al pronto soccorso in macchina, e lui ci chiama, ehi dottor, ma non mi deve trattare così, io volevo morire, questo e quell'altro, e l'hanno ricoverato in psichiatria. E una volta invece eravamo col mezzo del CISO, stavamo andando ad accompagnare dei volontari a casa, succede un incidente, e allora c'era sesso unico alternato al ponte, succede un incidente, praticamente questa macchina non sapeva che, ma si era accorto che stava avendo questa moto grossa, questa bida da impieno, sento ogni agoio, ci fermiamo con la macchina, e... Praticamente uno di noi si è girato e ha visto questo tipo che stava buttando dal ponte, mentre è successo l'incidente non sapevamo più cosa fare, abbiamo chiamato l'ambulanza per l'incidente, perché questo aveva la gamba rotta. E poi siamo andati correndo a prendere a questo, abbiamo fermato e cose, e poi si è messo questo che dirige il traffico, era fuori di Gabo, si è messo nel traffico facendo il video, mamma mia. Un attimino, aspetta. Ma niente, ci dà il grabo. Lo fa, ripeto, lo fa perché... Un attimino, c'entro qua, aspetta, ecco qua. Lo fa, non connette con il cervello e non è stato lì a perdere tempo. Non si butta. Perché se stai lì per dire, magari, no, facciamo un esempio, se lo vuoi fare tu, no? Se stai lì che ti guardi, non ti butti mai. Invece... Molte volte è capitato a uno che conosco io, che con il cervello ci conosce, e anche ci ha provato, però ancora non siamo ammazzati. Oh raga, dai, vi saluto. chiudendo. Ciao Gianni, ciao Antonio e ciao Luca, state bene, ci sentiamo alle prossime, avanti già. E ciao, ci sentiamo, là. Buona serata anche a te e buona continuazione a tutto ciò che so che stai andando a fare, ascolto le altre frequenze. Ciao, ci sentiamo, avanti Antonio. Ciao, ciao mascherata, ci sentiamo. Avanti io con Luca. Fabrizio, la brutta, ciao. Ciao, posso fare anche io ascolto le altre frequenze, non è il nostro ruino. Tutti lo possono fare. Ma io a Fabrizio lo conosco per come. E lui ha qualche frequenza più di me, ma vabbè comunque. Anche io già mi posso sforzare. Anche qualche apparato professionale in più c'ha. C'è stato l'apparecchio, studio le tali. No, so io adesso guardo nel bidone quanto ciò. Infatti che se non sto scherzando, c'è un virus che interessa veicolare a fronte di destra femmina. Allora, Unicom 207, nuovo nuovo. Gruppo 2. Qua c'è il VHF 25 in UHF. Ma cosa è rubato? Rubato con i soldi. vediamo. Perché ne ho diversi di quelli più o meno così veicolari. Poi quando non li usi, uno te piatta un altro. Vabbè, comunque, te lo sto dicendo. Rubato. C'ho cascato, c'ho tutto, c'ho la manuale, tutto. È nuovo, è questo ma è nuovo. Non lo so, vedi un po'. Guarda, 180 euro te lo porti via. 180 euro? Vabbè, adesso vedo. Casomai se... Perché c'è un mio amico lo stava cercando più o meno uno così, veicolare. Non c'è problema. Io ho fatto 200 e lo do 180. Non lo do, non scendo. 120 è bella, va a radio. È un po', come si dice, un po' difficile da usare, perché in inglese c'è molte funzioni, va, io qualcosa posso manovrare, ma non più di tanto. Comunque fammi sapere, già metto una baracchino, dai. Va bene, ci sentiamo, io sto chiudendo. Ciao, ciao di nuovo, maschera, ci sentiamo. Io stavo dicendo lui, io ho un amico che si è buttato dal ponte, perché era disperato proprio, ma non è che era pure di gabbo, era disperato perché non trovava lavoro, insomma, aveva un bel problema. Si è rampato da un ponte, si è tutto fratturato, ma non è morto, è caduto su un albero. Dal ponte di Rogello? Via. Non me lo ricordo quel fatto lì. Era caduto, ci ha buttato questo qua a ponte ed era caduto sopra un albero e si era fratturato, sì, fatto ben male, però non era morto. Ma detto, non è questa, devo dire, quel mio amico si era buttato lo stesso, l'età mia, non aveva problemi di niente, né di studio, né di lavoro, stava benissimo, eppure lì si è ammazzato, ovviamente, non è tranuta. Questo qua non mi sta il cervello già. E magari uno sta bene e dentro di sé non si sente felice, magari c'ha soldi e cose, ma i soldi dice che non fanno la felicità. A parte ti gratificano, ma dall'altra magari non sei soddisfatto. I soldi non fanno la felicità, ma aiutano già. E come si aiutano? Vabbè, comunque. Cambiamo il discorso, se non a voi, simile a pure a noi la malinconia, va Antonio, riprendi, un attimo di bianco che mi alza adesso, allora cambia l'acqua agli olive. Ragazzi, io volevo dire solo una cosa, quella frase perché lavora e perché si fa un culo dalla mattina alla sera, no, io perlomeno non la conosco. Perché io avendo i soldi a me mi renderebbe felice, perché la grazia a Dio ancora la salute ce l'ho, però se a me mi fate iniziare un iadico con le palle girate la perdo io la salute, perché è così, prendendo freddo e acqua, invece se io avrei avuto, io non chiedo altro. Se io avrei avuto i soldi per farmi una casa, per farmi una mia attività, per me mi era bastato. Tutto qua voglio dire io. Diciamo che i soldi ti fanno felice, ma tante volte no, perché se non sei tu di te non sei contento, non sei felice di quello che hai. I soldi fanno poco, se per dire tu c'hai un matrimonio fallito o cosa ti posso dire, ti fa male, ti fanno male altre cose, non sei contento, anche se hai soldi poco ti fanno. Dipende dal carattere. Matrimonio fallito, sì. Come in giro, no? Non sai, dipende se c'è età, no? Dipende dal carattere già, dipende dal carattere della persona, dipende. Io non lo so, per come sono io a me non me ne ha finita, per esempio. Se tua moglie ti muore di gorra, due calci nel sedere e via, ce ne sono altre donne. Cioè cosa me ne importa a me di una persona che è una patracca? Non ne importa più niente. Fai l'ora amara. E io vabbè. È preso un modo di pensare a tu. Tu sei attaccato alla persona, ti dispiace, non è che dai un calcio come dici tu e si davanti. C'è quello che magari se ne frega, c'è quello invece che magari è attaccato a quella delle altre donne, non è una futtinuta, come può essere per un maschio la stessa cosa. Ah, dicono, mi dispiace perché a un uomo dispiace sempre anche, però alla fin fine se tu hai voluto fare quello, vaffanculo, vai in ora amara. Se hai figli, le dai quello che li devi dare ai tuoi figli, è finita di la situazione. E quando sono troppo di pretese, figli e te li mandi in ora amara. Però a tuo figliolo li dai sempre, cioè solo per i figli. A lei manco la caghe. Ma guarda, uno può campare tranquillamente, sereno, tranquillo, solo ragionando con la testa. Deve ragionare. Io so di una situazione che questo qua ha ragionato con la testa, non si è fatto prendere dalle macchine, dalle cose. Ha fatto tutte le cose, ha pigliato, ha tirato la casa da un fratello, cioè, ma ha fatto bene proprio, ha preso e ha messo le valigie alla porta da avviarsi, e lì non ce la fa fare più niente, è andato alla bucata, ha fatto un casino niente e non gli hanno fatto nulla. Vabbè, la casa non risultava la sua. L'ha lasciata fare, tranquillo, è da grigliare, gli fa la franca. L'ha lasciata fare, ma lo sai cosa vuol dire che ci ha fatto? Tranquillo, non ha fatto né casine né niente. Si ha fatto acciappare solo le valigie nella Ianna, gli affiat. Vabbè, quello poi l'ho detto come esempio, meno, può essere qualsiasi problema, ecco, che ti logora il cervello, anche se magari hai soldi, non riesci a essere tranquillo con te stesso, va. Ma sai quando è che non sono tranquillo? Cioè, quando non nasce di là, non sono molto tranquillo, ma quando faccio di là me la posso buttare in giù. Vabbè, se uno non c'ha soldi, naturalmente non può essere tranquillo, che se arrivi così bagare non riesci a bagarli, tranquillo non rimane. Ma bisogna arrangiarsi, attaccati. È tutto lì, quando non hai se fa la faccia vera, però alla fine te lo risolvi sempre. Quando virai faccia, deve stare fischiettando, tranquillo, senza manco, come non fosse successo niente. Luca, Lucrezia. Cosa è grande che faccio sotto la faccia vera? Quando non faccio di là, allora sono così marumore. Diciamo che i soldi dei giusti vanno bene a tutti. Chiappa, quando mi ha fatto qualche stronzata, che ho preso un bel, allora sono di malumore. Ma però se no una finita a me, manco balanza in camera, infatti dico che c'è un po' di gente che non si merita niente. Ne conosco uno che ogni giorno lo vedi con una macchina diversa. Quindi c'aveva la Mercedes, quella sportiva, quella tipo duetto così. L'altro giorno c'aveva una Land Rover Discovery di quell'ultimo tipo. Insomma, c'era un bel di macchine grosse. O vendi droga o è ricco e fondato. Te lo dico io come, sono di quelli che li prendono, come ti posso dire, prendono un affitto, hai capito? Allora, non è questo dell'affitto, no. Quello lì ha sempre avuto macchine grosse e non ce le ha per un giorno, ce le ha magari per un annetto e cose, poi cambia. Ma è roba in affitto, è roba sua, chissà. E un giorno ho aiutato la madre è un bel grassa, lui a fare la spesa, certo la madre perché si è sentita male, l'ho vista che stava diventando bianca, tutta sudata, l'ho portata in bagno, bagnato il collo, vabbè, l'ho soccorsa, è avvicinata a me e mi ha detto quando ti serve qualche cosa, ti ringrazio per quello che hai fatto, quando ti serve qualche cosa sai dove trovarmi, questo è il mio indirizzo, Maladù, l'indirizzo di una ditta che c'è dove industriale. Ho capito, ma lo bappone. Ah, sicuramente i soldi, che è sempre con macchine belle. Non dico la gente anche che non ha trafitti, non ha nulla magari, però gli piace la macchina. Se la cambia e non perde valore, non perde neanche, cioè non perde molto valore, hai capito? Per esempio cosa perde? 1000 euro, 2000 euro, però no, non perde tutto. Ma poi ho sempre avuto belle macchine grosse, tutte macchine che costano belli, no? Quella Land Rover. Non so quanto costi, però non penso che costi poco, È un bel grosso, una ruda che va via. 50.000 euro costano quelle macchine. Fatti una cassa, guarda. Che affa? Intorno a 50.000 euro. Luca, dove sì? C'è una piscetta a cavallo sta facendo. Che affa? Ha detto che andava a ciambare quello lì, ma non è più durato. Guarda, stasera mi sento un bel tranquillo già. Cosa? Stasera mi sento molto tranquillo. Dice un bel soldi. No, non per quello, no. Mi sento un bel tranquillo perché sono in mia ferma. No, perché tu hai detto che quando ti sentivi tranquillo è perché c'è i soldi, quindi io ho collegato la studio. No, vabbè, chi sta? Ho fatto un bacio di matrica. E mi sa, adesso se non fai mudri di zanto. No, così. Mi sento più tranquillo perché detto che non vorrei parlare a nessuno, capito? Ma manco il televisore entra così. Ma non si sente proprio, hai capito? Non si sente proprio. Al limite se proprio ci metti un amplificatorino di questi 2-1, lo metti proprio vicino qua, il fischio e basta, non intendi altro. Ma se chiudi lo square c'è una telefonata. Scappa, tu prova a mettere uno di quegli amplificatorini, lo metti vicino al tuo baracchino, marrano se intendi volte. Un amplificatore di che cosa? Se 2+1, di questi... tipo amplificato di chitarra e quella roba lì. Tu lo metti vicino in AM e ti intende forte, brucia tutto. Lo metti in FM e senti la bassa, non intende nulla. C'è un fruscio così. Sì, non ne comprende nulla, capito? Iai. Mettere vicino, se no manco di turba. È una tranquillità, Pagappa. E già va bene così, dai. e non disturba il miglio. Sì, ma soprattutto che non si sente la voce, mi dice un apparecchio. È molto meglio. No, io quando sono in FM mi sento tranquillo. Vabbè, si usa sempre la M anche. Però in FM, stasera io sono tranquillo, capito? Sono sicuro di non sentirmi da nessuna parte. Ma si potrebbe usare alternativamente l'uno o l'altro, perché anche l'FM è una frequenza buona. Se li metti lo squelci è meglio, meglio dell'AM, sempre una telefonata. Scappa, ma con meno rotture di palle nostre, insomma, non mi hai capito. Lo so, ma non entra nessuno, capito? È un casino di chi. E io ho visto che quando la trattemmo entrano, ma stessi. Vabbè, quelli che magari ci sentono, solitamente sono che entri in quei canali, vanno lì e non ti cercano nemmeno FM. Ma sei scemo, tu come giri, senti che c'è qualcuno. E per forza di cose lo capisce uno che sei in FM. Se tu vai in AM adesso, mi senti dopo tutto in più, però lo comprendi che so che no. Hai capito? Molti fanno in AM e lo senti anche chiaro. Hai capito? Beh, non so quello lì, Antonio, non è avasso, bambino. Ma per dire, se quelli portano entrano sul 12, qua non ci vengono nemmeno, sul 21 in FM. Ecco. Avanti. Ed è semplicemente per un controllo, hanno regalato questo baracchino, l'ha attaccato adesso, funziona. Sì, si va abbastanza bene, buonasera. Sottoscritto doppio rughe super cordializza in compagnia di Antonio Bombolo e Luca, ma so che Luca sia ancora chi si ascolta. Avanti di nuovo, mi dice la donna, così almeno poi ti posso dire se l'apparato sta andando bene o male. Guarda, questo apparato è destinato a un cancer, no? Perché ho una antenina di quelle con la base magnetica che ho comprato stasera, appoggiata sul terrazzino, sono andato alla terra pugliata, sono combinato con quell'apparato, combinato. Che ti ringrazio comunque per la gentilezza, io sono arrivato a cenare, sono arrivato a controllare, perché non si è andato tirato a tutti, diciamo. Vai benissimo per quella zona, vai. Vai, molto bene. D'accordo. La serata è buon carico batteria. Che sarebbe la cena, tra parentesi, se non conosci il gel. Campirista, Antu. Scappa, è un po' basso di radio, lo sento, il segnale ce l'ha ma è un po' basso di radio. Comunque, buonasera ad Antonio Bombolo. Ha chiuso, Antu. Non era male il segnale, e la radio un pochettino bassa. Santiago 7 era. Anto sta uscendo da Via Napoli con un antenino piccolo con la base magnetica, va più che bene. Chiappa, non era male? No, avevo un antenino di quelli piccoli con la base magnetica. Non è male, è destinare a un camper, gli hanno regalato e volevo sapere se funzionava tutto lì. Chiappa, non era male, però la modulazione non ce la faceva sentirla, il segnale era buono, la modulazione non veniva. No, io lo sentivo, sentivo bene Anto. Magari la zona non era ideale per sentirlo, ma sentivo. Ah, diciamo che per il camper poi sono uno tutto dietro l'altro, capito? Va benissimo. Gappa. Ma adesso c'è già stata propagazione, ci si avrebbero sentito forti, allora sai. Vabbè. L'FM è sempre più forte, non so quanto ti sto arrivando a casa tua, ma a me il muso che affondo scala. No, io diciamo che sto uscendo con 8 watt, nemmeno 8 sono. Prova a vedere. Con la tensione Gianni, normale. Non sei proprio a fondo scala, ma quasi. Ma se faccio con la mossa, vedi, però che adesso no. Vabbè. Oggi va bene chiaro la modulazione. Gianluca? Pagappa, dicono molti che sono molto basso di modulazione. Io ti sento. scappa. Sostanzialmente tutta questa modulazione in questa in FM, però va, l'importante è che va. Kappa kappa. Va kappa. Luca. Cari Luca c'è bescio. Sicuramente. Ma la ruota di cose sempre, sta sempre entrando qui là. 12. Sì. Ma in questa serata ero non li più sentiti. Ma ora già entrato. Ma perché Gianluca adesso dovrebbe sta facendo le serate e cose, magari impegnato. E Gianpaolo di sera non entra perché guarda i film, quindi l'unico che potrebbe entrare è Alessandro, che sicuramente sarà anche all'ascolto magari. Scappa, sicuramente sì. Sì, sì, Alessandro. Queste volte non entro. E poi Gianpaolo arriva bene qua, Se si metteva la mantova sarebbe arrivato anche la vita. Sì. E non si può, è quella la faccenda, che si mette la mantova per voi. Se non si può, non si può. Bisogna accettare quello che è. Io se la volevo mettere l'avrei messa lo stesso, con una gara del cemento, lo vedi com'è. Perché c'è gente che si è messo un bidone, ha messo l'antenna, l'ha riempito di cemento e che ha fatto il sostegno. E poi da lì è partito. E già lo so che si può fare. E io ma non si andate in giro. Se lo date di mi fa, se lo sapo mi sono cascicato in giro, già lo sai già. Già l'ho visto. Dove ti telezera e via. E ti raggio. Spero che sto controllando l'antenna. E non si controlla, non te lo controlli da sotto l'oretto. Non te lo devo portarti. Chiappa. Chiappa, chiappa. Ma tu stanco sei oggi? Oggi. Cazzo, oggi mi ha rotto le palle questa pioggia, mi sono un pochettino arrendito. Incapolato. E poi ne togli anche il colore dalle bombole, no? No, non tanto quanto quello, perché devo fare, devo da fare cosa. E quando piove deve essere triste. Chiappa, no. Meno male che mi ha lasciato il tempo libero, un pochettino. Devo smontarne il motorino dalla moto e portarlo da quell'ignorantone giù a Bretagne da farvelo vedere a usato. Se non li portavo il motorino vecchio, cioè non mi dava il nuovo perché non lo sapevo. Cioè ci vuole molto a capire che è un motorino dell'Ape, cioè. Buonanotte già. Buonanotte Antu, che te sei andato? Tutti sei drumente. Oh, io sono a pensiero, sto pensando una cosa, no? Vabbè. Bilellucci. Chiappa. Cioè. Mi te l'ha fatto bucare un motorino per portarlo un destro, a vedere, per prenderlo uguale. Un motore di, cioè un motorino di avviamento, che sia della Pescara, che sia del 773 che abbiamo noi, è sempre quello, non cambierà mai. Della Pescara, tutti questi moto così, sono tutti uguali. No, Eddo, Muria, Robezzo, Iotto, cioè, certo, ma sei ignorante, sì, mamma mia. E Antu? Sì, se devo fare il rovescio. Voleva il pezzo perché cosa si è rotto? Vabbè, si è imbarrato questo motorino, si sono spaccati i cuscinetti e quindi ci voleva il pezzo nuovo. Lui lo voleva giù per vedere che darselo uguale. Cioè, ma tu che credi, cioè, non sei da oggi, 6 anni. Facendo quel mestiere lì, cazzo, non conosce un pezzo di chi si è morto. Ma sei proprio imbecille, sì. Non sia che ci sia diverso, sono quelli e basta, Non ce n'è diverso. Antu, io ti saluto, che è venuta l'ora strategica. Ci sentiamo domani, Antonio. Buonanotte a te e famiglia. Ciao ciao. Ciao, buonanotte già, dai.